19. Dal Daily Courant del 2 marzo 1776. Sui disordini avvenuti in Pall Mall a opera dei famigerati indiani londinesi. Il 29 scorso, alle 10 del mattino, Sua Maestà Re Giorgio III e la Regina Carlotta hanno ricevuto nel palazzo di St. James il colonnello Guy Johnson del Dipartimento Indiano per le Colonie Americane, il capo della nazione Mohawk, principe Joseph Brant Thayendanegea, e il suo segretario particolare, signor Philippe Lacroix. L'ingresso a corte della delegazione americana è stato seguito da una gran folla di londinesi, con le conseguenze che sono solite verificarsi quando troppa gente si raduna in un solo luogo. Furti, ossa ammaccate, ferimenti e oltraggi. A questo si aggiunga lo scompiglio generato da una cricca di saltimbanchi travestiti da indiani, che nemmeno di fronte alla Guardia Reale ha voluto abbandonare l'insano proposito di avvicinare il principe dei Mohawk. Due di essi, presi in custodia, sono ospitati a Newgate, in attesa che giudici e testimoni risolvano due importanti quesiti. Il primo, se questi indiani fasulli siano gli stessi che l'ultima notte dell'anno levarono lo scalpo di un certo James Hotburn, detto Dread Jack, alla taverna Occhio Solo di Tottenham Court Road, e ancora gli stessi che giorni prima assaltarono la carrozza di un gentiluomo di Mayfair, come descritto dalla vittima in persona in una lettera al nostro giornale. Secondo, quale fosse il motivo di tanto accanimento nel voler raggiungere i principi Mohawk, se un atto di pazzia o piuttosto un disegno preciso? Da questi interrogatori dipenderà la sorte dei due malfattori, i Dest, il manicomio di Santa Maria di Betlemme, oppure, come ci auguriamo, le forche di Tyburn. Ebbene, la ragione che ci ha spinto a sorvolare sui particolari del ricevimento a corte, particolari che anche le pietre ormai conoscono a memoria, è che, salvo i diretti interessati, soltanto noi in tutta Londra abbiamo una risposta a entrambi i quesiti. Tale risposta è la lettera che riportiamo qui sotto, la stessa che gli indiani di Londra avrebbero consegnato al principe Thayendanegea. Uno sconosciuto l'ha recapitata in copia alla sede del nostro giornale poche ore dopo il fatidico incontro. Ci siamo interrogati a lungo sull'opportunità di concedere queste pagine al delirio di un pazzo, assecondando così la sua perversione. Ci siamo risposti che sotto la folle apparenza queste righe celano un disegno lucido, e se il diffonderle fa un certo buon gioco a chi le ha fatte recapitare, tenerle nascoste sarebbe ancora più grave, perché priverebbe i nostri concittadini dell'unica risorsa che hanno di fronte a simili oltraggi: stare allerta, vigilare, conoscere il giorno e l'ora della prossima vittima del ladro. Al principe dei Mohawk, Sua Altezza Joseph Brant Thayendanegea. Fratello, scriviamo questa lettera consapevoli che i ministri della corona e le loro amorevoli guardie non ci permetteranno facilmente di parlare con voi in un incontro franco e tranquillo, preferendo annoiarvi con inutili ricevimenti, spettacoli teatrali e sfide tra spadaccini. La vostra visita nelle città di Londra e Westminster è per noi motivo di inspiegabile orgoglio e di grandi speranze. Orgoglio per gli onori tributati dalla capitale dell'impero a un principe di sangue indiano. Speranza per l'occasione che Dio ha voluto concedere ai Mohawk delle colonie e a quelli del vecchio mondo, di potersi abbracciare e dar vita a un'unica nazione potente. Per amor di chiarezza, diciamo subito che noi, Mohawk di Londra, a eccezione di chi vi scrive, non abbiamo manco una goccia di sangue indiano nelle vene, ma ci sentiamo in tutto e per tutto analoghi. I cosiddetti onest'uomini, infatti, ci considerano selvaggi e amano appiopparci le più crudele malefatte, per poi ricordarsi di noi quando hanno bisogno di carne da cannone per i loro eserciti. Un tempo eravamo anche noi un popolo fiero e coraggioso, dedito alla caccia e all'agricoltura, desideroso di vivere in pace, ma gli onest'uomini ci hanno soffiato la terra, e con essa boschi, alberi, animali e acque, costringendo i nostri nonni ad abitare quartieri malsani e a divenire servi, soldati, mendicanti o ladroni. Un destino che gli inglesi d'America vorrebbero riservare anche al vostro popolo e da cui vi mettiamo in occhio. I Mohawk di Londra, appesantiti da secoli di privazioni e sopprusi, non ebbero mai l'opportunità di scendere a patti con un sovrano. Hanno però un vantaggio rispetto ai fratelli d'America, che è quello di vivere nel cuore dell'impero, a pochi isolati dalle dimore di Sua Maestà, e di poter far sentire la propria voce forte. Immaginate che gli indiani delle colonie e quelli della madrepatria uniscano le forze in una grande nazione. I Mohawk di Londra verrebbero allora ricevuti dal re come ambasciatori, onore che viceversa non verrebbe mai concesso. D'altra parte, i Mohawk americani avrebbero qualcuno a presentarli nella capitale dell'impero, senza bisogno di attraversare l'oceano di qua e di là. Ecco perché riteniamo questa unione di grande convenienza per tutti e facciamo richiesta formale, fratello, di entrare a far parte della vostra confederazione come settima nazione. Se poi un patto di questo tipo non fosse possibile, siamo perfino disposti a fare atto di sottomissione alla vostra autorità, chiedendo alle sei nazioni di considerarci sudditi o di adottarci alla maniera indiana o al limite di farci prigionieri. Tutto pur di essere Mohawk con giusta ragione. Se dunque volete farci l'onore di accettare il nostro invito, vi chiediamo, fratello, di aggiungere queste condizioni al patto di alleanza che stringerete con lui. Primo, che gli indiani di Londra e Westminster non devono servire nell'esercito di Sua Maestà, ma solo ubbidire al capo supremo delle sei nazioni, Joseph Brant Thayendanegea, e all'imperatore Tau Wang Eben Zan Kaladar II. Secondo, che i terreni indiani delle città di Londra e Westminster, nonché del sobborgo di Southwark, siano considerati porta orientale della Casa Lunga, sottoposti all'autorità esclusiva del suddetto Joseph Brant Thayendanegea e dell'imperatore dei Mohawk. Guardie, soldati e milizie di Sua Maestà avranno accesso a questi terreni solo dietro formale autorizzazione. Terzo e anche ultimo, che al di fuori dei terreni suddetti è garantito agli indiani di Londra e Westminster il diritto di caccia, dal tramonto all'alba, sulla riva a sinistra del Tamigi, nelle riserve comprese tra Hyde Park e Tower Hill. Confidando nella vostra dedizione alla cosa comune degli indiani delle colonie e della madrepatria, noi siamo, fratello, vostri sudditi e umili servitori. Tau Wan Heben Kaladar II, imperatore dei Mohawk di Londra e Westminster. Crediamo non ci sia molto da aggiungere circa l'identità degli autori di questa lettera. Si tratta con certezza dei famigerati Mohawk di Soho, che la gente di Londra ha già ribattezzato Sohawk. Il titolo di imperatore, infatti, peraltro, del tutto incongruo a una nazione indiana, è lo stesso che compare nelle testimonianze del gentiluomo di Mayfair e del taverniere dell'Occhio Solo. Già per questo i due arrestati dell'altro giorno dovrebbero rimanere all'albergo reale di Newgate in attesa della giusta condanna. Per sovrappiù, una lettera di tal fatta costituisce di per sé un crimine grave, poiché, con l'artificio retorico dell'essere indiani per analogia, si finisce col sobillare in maniera evidente una vasta categoria di individui. Siamo certi che il principe Thayendanegea è ben lungi dal considerare con simpatia le farneticazioni di questi Sohawk. Tuttavia non possiamo fare a meno di notare che la sua presenza ha scatenato nella peggior feccia di questa città un pericoloso sentimento di rivalsa. Le sei nazioni sono senz'altro un alleato prezioso di Sua Maestà Imperiale. Il loro valore militare è indiscusso. Basti leggere i resoconti di quei francesi che ebbero la sfortuna di combattere les Iroquois. Ciononostante, riceverli a corte in pompa magna, presentarli come l'ago di una delicatissima bilancia e dedicar loro spettacoli e festeggiamenti fa sì che molti pensino di meritare attenzioni simili. Ma come? Si domanda all'improvviso un garzone di macelleria. Forse che Re Giorgio considera i selvaggi più importanti dei suoi stessi sudditi? Forse che il mio fucile non può servire la causa dell'Inghilterra meglio delle frecce dei primitivi? E allora perché non vengo ricevuto anch'io nel palazzo di St. James, dove peraltro non mi azzarderei mai a svilire Sua Altezza negandogli la giusta riverenza? Questi sono i discorsi che sentiamo fare per le vie di St. Giles e Whitechapel, a Soho e nel Garden. Per quanto contorti e ragionevoli, essi ci mettono sull'avviso. Non è forse che per ingraziarsi un alleato importante quanto si vuole, i ministri della corona rischiano di guastare l'alleanza tra il re e il suo popolo? È un rischio, questo, che si dovrebbe valutare con maggiore attenzione. Panifex.